Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Berlusconi farà esattamente il miracolo che fece nel 94, riportare la Lega su posizioni europee, moderate, riformatrici, per vincere, come è stato dal 94 in poi. Questa è la convinzione di Brunetta di Forza Italia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che Berlusconi sarà in grado di fare lo stesso miracolo di allora, quindi riunendo questa grande coalizione anche con la Lega, in qualche modo convincendo Salvini, che va abbastanza dritto per la sua strada, di nuovo ad accordarsi con Forza Italia, ad avvenire, diciamo, a più miti consigli, se così possiamo dire. Parleremo ovviamente sì di politica questa sera, perché ci sono nuove fibrillazioni nella maggioranza dopo le dimissioni di Lupi del nuovo centrodestra da ministro delle infrastrutture. Poi di nuovo torna lo scontro sulla prescrizione. Il nuovo centrodestra dice no, il PD vuole allungarli eccessivamente questi tempi dei processi per non fare in modo che poi appunto debbano essere chiusi proprio per prescrizione, mentre PD dice no, questo è un provvedimento equilibrato, terrà la maggioranza, perché c'è per esempio Nunzia Di Girolamo del nuovo centrodestra che più volte sta dicendo in questi giorni, se continua così Renzi pensando di avere un governo monocolore, mi sa che dovremmo fare passare un appoggio esterno, insomma uscire dal governo e appoggiarlo dall'esterno. Voi potete rispondere a questo quesito tormentoso attraverso gli sms al 349-238-6666, oppure come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Reggerà la maggioranza nonostante questi malcontenti, anche questi scossoni, come effettivamente anche le dimissioni di un ministro? 349-238-6666, la pagina Facebook di Effetto Notte, ma naturalmente non soltanto di politica, anche se c'è questa notizia che è emersa oggi, che a proposito dello scandalo che riguarda Incalza, il super manager delle infrastrutture, cosa che poi ha toccato anche Lupi, anche se non è indagato. Ebbene, secondo il GIP è stato scoperto che i soldi per Incalza erano nascosti dietro dei libri, quando si dice che la cultura non paga, in realtà avete visto. Poi parleremo naturalmente anche della catastrofe aerea che c'è stata oggi, sembra che non si possa passare una settimana tranquilli senza qualche tragedia, per un verso o per un altro. Ci saranno degli esperti, tra cui anche un esperto pilota professionista, e poi parleremo anche di questa scelta difficile nuova di Angelina Jolie, che dopo aver tolto entrambi i seni per il rischio di cancro ha tolto anche le ovaie. Insomma, un sacco di cose, però come sempre vi riassumo prima di tutto la giornata. La catastrofe aerea in Francia, 150 i morti, nessun sopravvissuto, a bordo anche una scolaresca tedesca, mistero sulle cause, ma ieri avrebbe avuto l'aereo un problema tecnico. Prescrizione sì della Camera al disegno di legge, il ministro Orlando avverte il nuovo centrodestra, non si torna indietro, Malfano assicura daremo battaglia al Senato. La lotta alla corruzione nelle aziende pubbliche, Cantone dice una legge da sola non basta, devono cambiare i comportamenti. Nigeria, più di 400 tra donne e bambini sarebbero stati rapiti dai terroristi di Boko Haram ad Amasak. Ancora una scelta difficile di Angelina Jolie, si è fatta rimuovere anche le ovaie per prevenire il cancro. Calciopoli prosciolti ma non assolti, su Moggi & Co è sempre bufera, la Cassazione ha messo la parola fine, ma le polemiche non si fermano. E partiamo quindi dal terribile schianto che non ha lasciato superstiti dell'aereo della compagnia tedesca Germanwings, che praticamente fa parte della grande compagnia, una delle più grandi del mondo, Lufthansa. È precipitato con 150 persone a bordo questa mattina sulle montagne della Provenza in Francia. Il volo dell'Airbus era partito da Barcellona, stava andando a Düsseldorf in Germania. Nel pomeriggio è arrivata la notizia che è stata trovata una delle due scatole nere, che sarà analizzata nelle prossime ore. Si tratta di uno degli incidenti più gravi degli ultimi 10 anni. Le cause sono ancora misteriose per il momento, non si esclude nessuna ipotesi, come ha detto anche il primo ministro francese Valls, anche se secondo la Casa Bianca non ci sono indicazioni che l'Airbus sia precipitato a causa di azioni terroristiche. Poi è arrivata poco fa questa notizia che l'aereo sarebbe stato fermo ieri diverse ore proprio a Düsseldorf per un problema tecnico, così ha detto proprio Lufthansa al Spiegel, al giornale tedesco online. Motivo dello stop: un problema al nose landing door, cioè al portello anteriore del carrello, ma poi ne parleremo, come vi dicevo, con gli ospiti, con degli esperti. Passiamo intanto alla politica, con il sì della Camera al disegno di legge sulla prescrizione e le conseguenti fibrillazioni nella maggioranza. Prescrizione più lunga per tutti i reati, in particolare per quelli di corruzione. Disco verde della Camera alla riforma della ex Cirielli, 274 sì, 26 no, 121 astenuti. Il testo passa ora al Senato, ma al di là dei numeri, il dato politico è la spaccatura della maggioranza, con il nuovo centrodestra che punta i piedi presentando poco prima del voto finale un emendamento per cancellare l'articolo 1, cuore del provvedimento, quello sull'aumento della metà dei termini per i reati di corruzione, e accusando il PD di voler aumentare in modo irragionevole i tempi dei processi. Rocco Buttiglione. Possiamo tenere una persona sotto processo per una vita? La pretesa punitiva dello Stato deve avere un limite temporale. L'emendamento è stato bocciato dall'Aula, di cui l'ira del nuovo centrodestra, che prima annuncia no, poi l'astensione sul voto finale in attesa di quanto accadrà al Senato. Decisivo infatti l'intervento del guardasigilli Orlando, che riesce a stemperare i toni promettendo che ci sarà una rivisitazione complessiva sui tempi del processo, anche se sull'impostazione complessiva non si torna indietro. Sulla definizione di una specificità di alcuni reati che hanno come presupposto un patto che in qualche modo li secreta per molto tempo, non credo che si possa tornare indietro. Dunque le posizioni rimangono e lo scontro è solo rimandato al Senato, però, dove i numeri per la maggioranza sono più a rischio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E il Ministero dell'Economia ha annunciato una consultazione pubblica di 2 settimane per il pacchetto anticorruzione da applicare alle società di Stato. Tra le novità anche la rotazione dei dirigenti, controlli e sanzioni a chi non si adegua. Un decalogo anticorruzione per le società di Stato con l'obiettivo di prevenire abusi e illeciti. Il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone annuncia regole valide anche per le società atipiche come le fondazioni, ma chi si aspetta soluzioni salvifiche sbaglia. La legge anticorruzione, sia quella penale sia le altre norme che pure ci sono in Parlamento, sono utilissime, ma sono un pezzo del sistema. Le norme non hanno funzione salvifica. La direttiva del Ministero dell'Economia per partecipate e controllate sarà sottoposta a una consultazione di circa 2 settimane prima di diventare operativa. Per le società quotate e quelle che emettono titoli di Stato ci vorrà invece qualche settimana in più, dice il capo di gabinetto del MEF, Roberto Garofali, precisando che è stato aperto un tavolo di approfondimento anche con la Consob. Il pacchetto di regole prevede la rotazione dei dirigenti, controlli e sanzioni a chi non si adegua, norme che esprimono la volontà del governo di farsi carico della gestione corretta delle aziende pubbliche, annuncia il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Dobbiamo farci carico noi in primis di tutelare l'interesse pubblico, di una corretta gestione delle aziende pubbliche. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Ercole incalza l'ex capostruttura di missione del Ministero delle Infrastrutture, coinvolto nell'inchiesta della Procura di Firenze sulle grandi opere, resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Firenze, Angelo Antonio Pezzutti, respingendo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai difensori del supermanager, che ha 71 anni. Durante l'interrogatorio di garanzia, incalza è stato, vi ricordo che incalza è stato arrestato per l'indagine sui grandi appalti. E poi parliamo anche della manifestazione annunciata da Maurizio Landini della FIOM sabato prossimo a Roma. Anche la segretaria della CGIL, Susanna Camusso, conferma la sua presenza, dice: io ci sarò, non c'è dubbio, non abbiamo ancora ragionato sul comizio, ma non mancherò su chi, dice, non abbiamo ragionato su chi parlerà sul palco, ma certamente non mancherò. E poi le notizie dall'estero, ritorniamo a parlare di Tunisia, che prova a rialzarsi dopo l'attentato terroristico del 18 marzo. La guida sta spiegando i capolavori del bardo, gli stucchi, i mosaici, i quadri. Poi un colpo, le persone si guardano intorno ma non si muovono, quindi la raffica di spari e la corsa disperata tra i labirinti di scale e saloni. Cos'è successo? Hanno sparato, si chiedono. Silenzio, silenzio, ripete qualcuno. Un video inedito pubblicato da Repubblica.it racconta i momenti drammatici vissuti durante l'attentato a Tunisi il 18 marzo. A girare il filmato una coppia di turisti italiani con una telecamera rimasta inavvertitamente accesa. Il bilancio sarà di oltre 20 morti, di cui 4 italiani. Oggi fuori dal museo migliaia di tunisini manifestano contro il terrorismo. In mano i cartelli: visitate la Tunisia. Il bardo però non riaprirà in queste ore, come previsto, ma domenica, ha annunciato il curatore. E solidarietà arriva dall'Italia, che cancella parte del debito della Tunisia, 25 milioni di euro. La democrazia e la cultura sono più forti del terrorismo. Queste le parole del ministro Gentiloni, che in una visita lampo ha incontrato a Tunisi le due italiane italiana è ferita e ricoverata alla clinica Pasteur. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Tunisia alla Nigeria, dove più di 400 tra donne e bambini sarebbero stati rapiti dai terroristi di Boko Haram, a Damasak, città della Nigeria nord-occidentale liberata dalle truppe del Niger e del Chad. Ricordate, i terroristi di Boko Haram, gli stessi che ad aprile dell'anno scorso rapirono circa 300 studentesse per il solo fatto che volevano studiare, non se ne sa nulla. Lo riferisce il sito della Reuters, che cita persone dal luogo. Se confermato, si tratta dell'ennesimo sequestro di massa da parte dei jihadisti. E ora di nuovo in Italia, anniversario oggi 71esimo della strage delle fosse ardeatine. Mattarella, Presidente della Repubblica, ha reso omaggio alle vittime dell'eccidio nazista, dove furono uccisi 335 uomini trucidati per rappresaglia dalle truppe tedesche. È la seconda volta che il Capo dello Stato fa visita alle fosse ardeatine, la prima era stato il giorno dell'elezione a Presidente della Repubblica. Cambiamo proprio argomento, parliamo di Apple. Nel giorno in cui ha ricevuto la sua prima valutazione da $1 trilioni, la Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di 3 manager del colosso di Cupertino per una presunta evasione fiscale. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sulla presunta evasione fiscale commessa dalla multinazionale americana Apple in Italia tra il 2008 e il 2013. I magistrati contestano a Apple il mancato pagamento di circa 879 milioni di euro di IRES, l'imposta sul reddito delle società. La chiusura delle indagini dovrebbe essere seguita da una richiesta di rinvio a giudizio per 2 manager della Apple Italia e per un dirigente della Apple irlandese. Il reato ipotizzato è quello di omessa dichiarazione dei redditi. Secondo l'indagine, i profitti realizzati in Italia dalla Apple sarebbero stati contabilizzati in Irlanda, paese dove la pressione fiscale è più bassa. Angelo Mincuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi dicevo della scelta di Angelina Jolie, comunque, che secondo i medici, gli esami che ha fatto, un altissimo rischio di ammalarsi di cancro, e quindi dopo la doppia mastectomia di 2 anni fa ha annunciato l'attrice di essersi fatta asportare anche tube ovaie. Di questo ne parleremo più tardi con un luminare, è una scelta controversa, la consigliano in casi appunto di così forte ereditarietà oppure no. E poi la chiusura con lo sport, quello buono e quello meno buono, con Calciopoli. Sono stati prosciolti ma non assolti Moggi in Company, sempre bufera, dopo la sentenza di ieri della Cassazione che li ha prescritti. Le polemiche non si frenano, la prescrizione è calata sulla maggior parte del processo di Calciopoli. Prescritti all'associazione a delinquere contestata a Luciano Moggi e Antonio Giraudo, è una vicenda tipicamente italiana. Questo è stato il commento di Giovanni Malagò del CONI. E poi ritiro degli azzurri a Coverciano in vista della gara di sabato a Sofia contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni a Euro 2016. E poi martedì a Torino in amichevole contro l'Inghilterra. Rientra nel giro della nazionale Andrea Barzagli, fuori per infortunio dal mondiale brasiliano. E sentiamo il 33enne difensore juventino come ringrazia il tecnico bianconero Allegri, che lo ha riportato gradualmente in campo. È normale che personalmente, anche un po' egoisticamente, un giocatore vorrebbe sempre buttarsi dentro e giocare. Lui ha deciso così. Quando c'è stato, secondo lui, il momento giusto per mettermi, mi ha messo, ho giocato anche 3 partite di seguito e di conseguenza si spiega anche la convocazione in nazionale. Comunque sì, ho fatto 3 partite in una settimana, mi sembro, direi, a posto per essere convocato. Bene, direi che il riassunto è abbastanza esaustivo per il momento. Adesso man mano scenderemo più nei dettagli su alcuni argomenti con gli ospiti più tardi. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando. Ci sono sempre i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Nei prossimi giorni magari vi spiego come arrivare prossimamente attraverso il sito di Radio 24, il nuovo sito, poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. E quindi la domanda che vi pongo questa sera è: con tutte queste tensioni, la maggioranza di governo reggerà nonostante il nuovo centrodestra insomma sia attraversato da molto malcontento, con Nunzia Di Girolamo che dice per esempio forse saremmo costretti a un appoggio esterno al governo, quindi prevede di uscire dal governo, potrebbe essere così una minaccia magari poco fondata. E anche chi vedreste, sempre nella pagina politica, come prossimo successore del sindaco di Milano Pisapia, visto che ha annunciato in questi giorni che non si ricandiderà, cosa che è stata anche contestata da molti visto che tra pochi giorni c'è l'Expo, e già è iniziata la corsa sia all'interno del centrodestra che naturalmente anche del centrosinistra. 349-238-6666 è sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Corrado dice Gerardo Colombo. famoso magistrato anche, no, che ha fatto parte di Mani Pulite. E poi invece su quanto riguarda la tenuta della maggioranza, nonostante queste fibrillazioni anche oggi, per esempio sul disegno di legge della prescrizione, c'è Wally che scrive: solo scaramucce, Daniele, il governo rimarrà in piedi perché quelli di Nuovo Centrodestra ci tengono troppo ad esserci, troveranno un accordo salva poltrone perché sanno benissimo che se andassimo al voto domani due terzi di loro non vedrebbero i tavoli del governo nemmeno in cartolina. Adesso però passeremo a un altro argomento, all'argomento centrale di oggi, che è quello di questo terribile incidente aereo. Prima vi riassumo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie più importanti di oggi. Naturalmente cominciando dall'Airbus Airbus A320 del Germanwings, che si è schiantato contro una montagna oggi in Francia, 150 morti, mistero sulle cause, e tanto c'è la protesta dei piloti della Germanwings che ferma 30 voli. E poi il via libera al disegno di legge sulla prescrizione, la maggioranza si spacca, come vi dicevo il Nuovo Centrodestra si astiene, il testo passa al Senato, il ministro della giustizia Orlando dice potremo insomma rivedere qualche aspetto ma non faremo passi indietro. La Grecia presenta la lista delle riforme all'Eurozona entro lunedì per lo sblocco degli aiuti finanziari. Sabato l'amministrazione è annunciata da Landini, che porta la FIOM in piazza, e Camusso dice ci sarò. Ruby era ad Arcore anche tra novembre e dicembre, secondo gli atti del processo Ruby Ter, col cellulare spento per non farsi trovare. E poi prosciolti ma non assolti Moggi e Company, e sempre bufera sulla sentenza della Cassazione che li ha prescritti. E ancora Angelina Jolie contro la paura del tumore, via anche tube ovaie. Questo è il nuovo annuncio che ha fatto per l'altissimo rischio da una variante del DNA che ha, e già aveva fatto questo intervento al seno. E adesso soffermiamoci sulla notizia di primissimo piano di oggi. Siamo praticamente svegliati con questa terribile notizia dello schianto dell'aereo tedesco, dell'aereo della compagnia tedesca Germanwings, praticamente nella regione della Provenza in Francia, sulle Alpi francesi, un Airbus A320. In una zona di difficile accesso, l'aereo era decollato da Barcellona alle 9.55 e stava andando a Düsseldorf in Germania. Trasportava 144 passeggeri, 6 membri dell'equipaggio. Non pare che ci possano essere superstiti, perché chi ha visto dall'alto quella zona ha detto che si era completamente polverizzato. C'era una scolaresca tedesca, anche c'erano due neonati e c'erano due tenori tedeschi, c'era anche questa scolaresca del Nord Reno-Vestfalia composta da 16 ragazzi e due insegnanti. I ragazzi erano di ritorno da un viaggio di scambio tra studenti. Ed è il primo disastro per un volo low cost in Europa, perché questa compagnia, la Germanwings, è praticamente una sorella minore, diciamo, di Lufthansa. Domani il presidente francese Hollande, la cancelliera tedesca Merkel, il primo ministro spagnolo Rajoy hanno annunciato che saranno sul luogo della sciagura. Il governo spagnolo ha deciso 3 giorni di lutto perché pare che la maggioranza dei passeggeri fosse appunto spagnola, almeno 42 erano di nazionalità spagnola. Domani il Parlamento europeo osserverà un minuto di silenzio in apertura della sessione plenaria di Bruxelles, e poi nel pomeriggio oggi è stato annunciato il ritrovamento delle scatole nere, e una delle due scatole nere che verrà analizzata nelle prossime ore, così ha detto il ministro francese dell'interno Bernard Cazeneuve, precisando che la scatola nera verrà trasmessa agli inquirenti. Insomma, per il momento c'è molto mistero sulle cause, perché pare che sia venuto giù a una grandissima velocità con una rotta anomala. Era partito da Barcellona e doveva raggiungere la Germania. Ne parliamo con Francesco Tosato, analista del CESI, Centro Studi Internazionali, che saluto. Buonasera Tosato. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. E con Giovanni Galiotto, segretario generale Piloti ANPA, che è l'Associazione Nazionale Professionale di Aviazione Civile. Buonasera Galiotto. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Tosato, dopo le notizie che sono arrivate oggi e l'ultima di poco fa, praticamente poco prima che iniziasse la trasmissione, è arrivata questa dichiarazione della Lufthansa che ieri è stato fermo questo stesso aereo. Prima è arrivata la notizia che era stato revisionato proprio ieri, e poi che è rimasto fermo delle ore a Düsseldorf per un problema tecnico al carrello. Non è stata esclusa nessuna ipotesi, come succede in questi casi. Molti si saranno fatti venire il dubbio di un possibile attacco terroristico, di un terrorista a bordo. Guardi, adesso in questa fase è molto difficile avere delle ipotesi più che concrete, visto che siamo nell'immediatezza della tragedia e anche delle indagini. Quello che pare più probabile, osservando la situazione, è una possibile avaria catastrofica, perché dai pochi dati a disposizione l'aereo è decollato con un profilo normale e ha raggiunto la sua quota operativa di 38.000 piedi come da piano di volo. Dopodiché, anziché stabilizzarsi, ha iniziato una discesa, peraltro non particolarmente repentina, perché si parla di 4.000 piedi al minuto, che sicuramente non è normale, però in una condizione di emergenza non è neanche estremamente anomala, sembrerebbe quasi che sia stata per quanto possibile controllata. Il percorso, che la rotta che il velivolo stava seguendo, era esattamente quella del giorno prima, del volo del giorno prima, conseguentemente non c'è un'anomalia che faccia pensare a un possibile dirottamento o a qualche situazione di questo tipo. Di certo è molto strano la dinamica per cui i piloti non siano riusciti a mettersi in contatto con la torre di controllo, almeno così sembra, perché sono anche abbastanza contraddittorie le prime ricostruzioni. Tosato, mi scusi se la interrompo, sì. Fra i punti oscuri c'è proprio questo, che è arrivata la notizia dell'allarme dato dall'equipaggio, poi invece un'altra notizia secondo la quale l'equipaggio del volo della Germanwings non ha lanciato un SOS prima di schiantarsi, ma in realtà è il controllo aereo che ha deciso di lanciare l'allarme. Infatti, perché non aveva più alcun tipo di contatto con E perché si era reso conto dell'anomala dinamica della discesa del volo. Quindi dalle ultime notizie sembra che più che altro siano stati i controllori di volo francesi che si siano resi conto che qualcosa non andava, fino a quando poi hanno perso definitivamente contatto, quando il velivolo era a 6.000 piedi ma ormai era in prossimità delle Alpi e purtroppo si è schiantato. Quindi potrebbe essere compatibile questa dinamica anche con una situazione di estremo pericolo e di estrema emergenza in cabina, che quindi abbia tenuto i piloti impossibilitati a comunicare anche per una varia dei sistemi, piuttosto che proprio perché, per esempio, un'ipotesi che non si può scartare è quella di una depressurizzazione molto veloce del velivolo a una quota estremamente alta, perché 38.000 piedi sono comunque più di 11.000 metri, e conseguentemente ci sia stata un'effettiva impossibilità a comunicare. Anche un possibile incendio, anche un possibile incendio nella cabina di pilotaggio. Potrebbe essere una delle ipotesi che spiega come mai il velivolo non ci sia stato nessun tipo di comunicazione tra il velivolo e i controllori di volo, perché obiettivamente sono passati 10 minuti, e quindi in 10 minuti la situazione, questo punto sarà da spiegare, e solo il voice recorder, probabilmente assieme all'altra scatola nera, potrà chiarire questo punto. Galeotto, visto appunto che lei è un pilota e li rappresenta, hanno assicurato che la compagnia era assicurato che il capitano dell'Airbus era in servizio da 10 anni sugli aerei della Germanwings, quindi non difficilmente può essere stato un'incapacità del pilota in questo caso. Lei dell'esperienza che ha, che ipotesi si è fatto lei di questa catastrofe? Per prima cosa mi consenta di esprimere la vicinanza ai familiari delle vittime, ai familiari dei colleghi, certo, per questo drammatico incidente. Il comandante, l'equipaggio, il comandante e il suo primo ufficiale del volo erano sicuramente dei professionisti estremamente addestrati. Non dimentichiamo che i protocolli di addestramento di tutte le compagnie aeree sono stabiliti e sono rigidi, ma qui in particolare stiamo parlando di una compagnia aerea che fa parte del gruppo Lufthansa, e sicuramente la storia e l'addestramento che i piloti Lufthansa ricevono, come i piloti delle compagnie, delle major europee, visto che stiamo parlando dell'Europa, sono a degli standard che sono elevatissimi, controllati e verificati più volte durante l'anno, e quindi l'ipotesi di un errore, di un banale errore dovuto a inesperienza da parte dell'equipaggio, mi permetto di dire che va escluso senza soffermarsi troppo. E per il resto io sentivo le riflessioni del suo ospite, premesso che evidentemente quando c'è un incidente aereo, gli eventi del passato ci hanno insegnato che il modo migliore di commentarlo è quello di non farlo e di aspettare che poi siano le risultanze dell'inchiesta di sicurezza a dirci quello che succede, perché le variabili sono veramente tantissime. Questo naturalmente, anche se di fronte a una tragedia del genere ci si pone immediatamente delle domande, si ha un po' l'urgenza, no, di darsi delle spiegazioni o almeno di provare a fare delle ipotesi. È comprensibilissimo che ci sia un'urgenza, soprattutto da parte dell'opinione pubblica e da parte dei media. È importante che questa urgenza poi non porti su false tracce oppure su ipotesi che sono irrealistiche. Di sicuro i pochi dati che abbiamo avuto finora, come diceva anche precedentemente il suo ospite, sono di questo aeromobile che era arrivato alla quota di crociera e che ha cominciato una discesa con un variometro che apparentemente è assolutamente compatibile con una procedura di discesa di emergenza. Che cosa sia a monte di questa discesa oggi non ci è dato saperlo, purtroppo. Sentivo parlare di forse fumo, forse depressurizzazione, ipotesi valide ma sono solamente ipotesi. È di sicuro un'anomalia il fatto che non ci sia stato il modo e il tempo per l'equipaggio di fare la comunicazione radio. Ricordo che in questi frangenti che vengono provati al simulatore, la chiamata radio è uno degli elementi principali che viene osservato, per il semplice motivo che gli aeroplani viaggiano su queste aerovie, su queste autostrade, impacchettati a quote di 300 metri uno dall'altro, per cui è chiaro che una discesa di emergenza corre il rischio di andare a interferire con le rotte di altri aeromobili, e quindi è previsto ed è necessario che l'equipaggio faccia la chiamata al controllo. Voglio chiedere a Tosato rispetto proprio all'ultimissimo aggiornamento che è arrivato su questo disastro aereo, quanto detto da Lufthansa, a parte, non so se lo dico ingenuamente, la sincerità di Lufthansa, forse era tenuta da compagnia serissima, una delle più grandi del mondo, a dire che ieri questo stesso aereo è rimasto fermo diverse ore a Düsseldorf per un problema tecnico, quindi quello potrebbe essere la spiegazione, anche se, come diceva Galeotto, naturalmente bisogna aspettare l'inchiesta, la verifica delle scatole nere. Guardi, un problema al carrello francamente non so se possa essere direttamente correlato all'incidente di oggi, perché obiettivamente non ho elementi per poterlo dire. Quello che diciamo è assolutamente evidente è che, se penso al velivolo, cioè all'Airbus A320, è un aereo provato, è praticamente il più presente nei cieli della sua categoria, e conseguentemente ci sono più di 6.500 velivoli di quella famiglia che volano, e conseguentemente è un aereo che ha dei margini di sicurezza molto elevati. Capire quale sia stata la causa, se il problema di ieri ma credo che comunque il personale della Lufthansa e della compagnia a lei gemella, qui la Germanwings, sia estremamente addestrato per controllare il velivolo, e quindi se avesse avuto il minimo dubbio ci fosse stato un problema di questo tipo. Pronto? Sì, sì, deve essere forse caduto Galeotto. Per carità, non nel senso di. Quindi dico, mi sembra molto difficile che potessero pensare di far decollare un velivolo con dei problemi seri. Credo che diciamo ci sia stata una sfortunata coincidenza il giorno prima, non si sa se poi possa aver comunque comportato degli effetti oggi. Questo è ancora troppo presto per dirlo. Certo, intanto abbiamo fatto appunto questa analisi così a caldo, e chiaramente bisognerà aspettare l'inchiesta e vedremo. Naturalmente da molti c'è anche la speranza che non sia per l'appunto l'atto terroristico, ma sembrerebbe che si possa forse escludere per il momento, però appunto senza scatole nere, senza i risultati dell'inchiesta, più di questo non si può dire. Grazie Francesco Tosato. Grazie a lei e un saluto agli ascoltatori. Eccoci di nuovo insieme, Roberto Giordano, con voi, con me. I vostri messaggi continuano ad arrivare, molti anche dei vostri commenti tecnici su questa tragedia dell'Airbus tedesco. Adesso però cambiamo tema, andiamo sulla politica, dopo prima vi riassumo le notizie più importanti. Dice Eloisa: caldeggerei fortemente la candidatura di Marino a sindaco di Milano, per Roma ha già fatto abbastanza, sarebbe opportuno che ora spendesse le sue competenze altrove. E questo per quanto riguarda la domanda che vi facevo: chi potrebbe essere il successore di Pisapia a Milano. Poi sulla tenuta della maggioranza Costanza, ci sono anche molti altri messaggi. Qualcuno dice sindaco di Milano, Ugo di Milano, dice Antonio Di Pietro, perché no? E poi altri messaggi, si può evitare di parlare di Salvini come se fosse meritevole tanta attenzione e diffusione mediatica, altrimenti i suoi successi sono anche frutto di chi gonfia dappertutto. Ma insomma, vi leggevo un'agenzia di poco fa, è una notizia che dice: io premier o sindaco di Milano, scelgano i cittadini, io milanese nel sangue, ma Renzi è pericoloso, se serve ci sono, l'ha detto poco fa, credo, sì, l'ha detto a Ballarò. Adesso vi riepilogo le notizie e poi con il prossimo ospite. Incidente aereo in Francia, 150 morti, nessun sopravvissuto, a bordo anche una scolaresca tedesca, mistero sulle cause, ma ieri avrebbe avuto un problema tecnico. Prescrizione sì della Camera al disegno di legge, il ministro Orlando avverte il nuovo centrodestra, non si torna indietro, ma Alfano assicura, daremo battaglia al Senato. La lotta alla corruzione nelle aziende pubbliche, secondo Cantone una legge da sola non basta, devono cambiare i comportamenti. Nigeria, più di 400 tra donne e bambini sarebbero stati rapiti dai terroristi di Boko Haram. Ancora una scelta controversa di Angelina Jolie, si è fatta rimuovere anche le ovaie per prevenire il cancro, e Calciopoli fa continuamente discutere ancora la sentenza di ieri della Cassazione che ha prosciolto per prescrizione Moggi e Giraudo e la gran parte insomma del processo di Calciopoli. E ora quindi parliamo di politica, della tenuta della maggioranza, soprattutto tra insomma il PD e il nuovo centrodestra, che diciamo piuttosto amareggiato, serpeggia molto malcontento nel partito di Alfano in questi ultimi giorni, tra le dimissioni di Lupi e poi oggi il disegno di legge sulla prescrizione. Secondo il nuovo centrodestra si allungano eccessivamente i tempi per non far scadere i processi, ma il PD parla invece di un provvedimento equilibrato e il nuovo centrodestra però dice che darà battaglia al Senato. Intanto saluto Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Quindi parleremo della tenuta della maggioranza, se tiene, e dall'altra anche magari facciamo un excursus proprio su quello che sta, la corsa che già sta cominciando per succedere a Pisapia nelle elezioni comunali del 2016. Intanto sentiamo che cosa ha detto il ministro della giustizia Orlando oggi proprio a proposito delle tensioni sulla prescrizione. Non sono stati allungati i tempi dei reati, della prescrizione per alcuni reati per ragioni di esecrazione di quel tipo di reati. Questo allungamento è dovuto alla particolare natura di quei reati. Non abbiamo scelto perché riteniamo più grave la corruzione propria e la corruzione in atti giudiziari di altri tipi di reati contro la pubblica amministrazione. La scelta è dovuta al fatto che quel tipo di reato si basa su un patto corruttivo che emerge spesso molto dopo al momento in cui questo patto si è concluso. Questo ha cercato di spiegare il ministro Orlando. Intanto forse questo scontro oggi si è un po' affievolito, ma probabilmente soltanto rimandato al Senato, perché prima il nuovo centrodestra aveva detto non votiamo di no e poi si sono astenuti. Sentiamo Nunzia De Girolamo del nuovo centrodestra che cosa dice da qualche giorno. Credo che questa sia una vittoria a metà o una sconfitta a metà, perché questo è un primo tempo, vediamo i supplementari o il tempo finale che ci sarà al Senato. Detto ciò, è evidente che tra i punti da porre a Matteo Renzi per continuare a stare in questo governo c'è il tema della giustizia. E che cosa vuole fare sulla ragionevole durata dei processi oltre che sulla prescrizione? Allora, questo pongo io: se Matteo Renzi non risponderà ad alcuni temi che noi intendiamo porgli, prescrizione, partite IVA, lunghezza dei processi, piccole e medie aziende, legge elettorale, credo che dovremmo andare all'appoggio esterno. Mi sembra ovvio. È possibile secondo te, Fabrizio Forché, che quindi si possa sfilacciare la maggioranza e uscire? No, io non lo credo. Il fatto che non lo credo io forse non è molto importante, è molto più importante che non lo crede Alfano. Davanti a una presa di posizione di questo tipo dei giorni passati è stato lo stesso Alfano a dire no, assolutamente, noi da qui non ci muoviamo. Ho l'impressione che il nuovo centrodestra non abbia alternative, al di là del malumore, dell'insofferenza nel stare in una maggioranza in cui evidentemente Renzi tende ad occupare tutti gli spazi, a dare sempre meno spazio politico al nuovo centrodestra e addirittura a non riconoscere alle volte la dignità di questo suo alleato. Però il nuovo centrodestra non ha alternative politiche chiare allo Stato, e Alfano alla fine ha ragione a dire lasciare ora il governo nel momento in cui c'è una ripresa economica che magari possiamo intercettare e possiamo valorizzare come nostro contributo al governo. Sarebbe un atto politicamente sbagliato in questo momento. Senti, invece, probabilmente è prematuro, per carità, perché le elezioni comunali ci saranno nel 2016, però questo annuncio che ha fatto nei giorni scorsi il sindaco di Milano Pisapia, dicendo non mi ricandiderò, lo dice già quando manca un anno e due mesi ancora alla fine del suo mandato, che molti hanno criticato perché dicono sembra un sindaco azzoppato proprio adesso che inizia l'Expo. Come commenti questa sua decisione di esporsi subito così? E per esempio quella dichiarazione di Salvini, che è già pronto a diventare un sindaco premier? Guarda, io credo che su Milano sia una partita politicamente davvero molto interessante. Milano è una grandissima città che va governata come una grandissima città industriale, prima di tutto. Con Pisapia forse, diciamo, questa missione della città è stata un po' troppo trascurata. Una grande città industriale, una grande città innovativa, una grande città di design, una grande città di moda, una grande città di fiere. Insomma, Milano credo deve un po' riscoprire questa sua vocazione di traino dell'economia italiana, e la prossima sfida a sindaco in questo senso sarà molto importante. Da una parte c'è un Salvini straordinariamente popolare in questa fase, ma che non so quanto riesca, come dire, a incarnare questo destino di Milano, e dall'altra c'è un centrosinistra che in questo momento fatica, mi pare, a trovare un candidato all'altezza di questa sfida. Ma avremo comunque tempo, insomma, per tornarci, la corsa è soltanto cominciata. Grazie Fabrizio Forché intanto. Grazie a voi. Ciao Fabrizio. E le notizie più importanti, lo sapete, sono la catastrofe aerea dell'Airbus tedesco che si è schiantato contro la montagna in Francia con 150 morti, e il disegno di legge sulla prescrizione che per ora è passato alla Camera, ma il nuovo centrodestra annuncia battaglia al Senato. Europa 24 notte. Europa, occupiamoci dell'Italia, che è maglia nera per numero di sentenze della Corte Europea di Strasburgo non eseguite. A dirlo è l'ottavo rapporto sull'esecuzione delle sentenze pubblicate dal Consiglio d'Europa, che vede il primato negativo per l'Italia, seguita a ruota dalla Turchia. Non va meglio neanche per gli indennizi, emergono però alcuni aspetti positivi, gli interventi messi in atto per esempio per diminuire il sovraffollamento delle carceri e la diminuzione dei costi per risarcire le violazioni. Enza Lodo ha intervistato l'avvocato Antonio Giulio Lana, direttore dell'Osservatorio sulla Giurisprudenza CEDU e segretario generale dell'Unione Forense per i Diritti Umani. Da un lato emergono degli elementi positivi collegati agli interventi sul sovraffollamento carcerario, sono state infatti adottate nel corso del 2014 dei provvedimenti che prevedono una riparazione per coloro che appunto hanno vissuto il regime di detenzione in una situazione di sovraffollamento, e dall'altro lato con riferimento ai tempi della giustizia, degli interventi che dovrebbero in linea di principio migliorare la situazione della nostra giustizia, in particolare la lentezza dei processi, che è un annoso problema del nostro sistema giudiziario, interventi che io non credo francamente potranno portare a un significativo miglioramento della nostra situazione, ma il rapporto lo vede in termini positivi. La contraddizione invece emerge leggendo il rapporto se si guarda ad altri dati, come per esempio quello delle esecuzioni delle sentenze della Corte. Molte sentenze rimangono ineseguite e il risarcimento dei danni non viene riconosciuto, e questo porta a un'immagine molto negativa dell'Italia. Per quale motivo sono così tante le sentenze non eseguite? Oltre 2600. Ultimamente, anche in ragione, credo, della situazione economica difficile il nostro paese sta vivendo, anche per quanto riguarda i pagamenti del risarcimento dei danni, vi sono dei significativi ritardi. Secondo me è interessante ragionare su un dato che emerge dal rapporto, ossia per esempio per quanto attiene il 2013, l'Italia è stata condannata a pagare a titolo di risarcimento del danno 71 milioni di euro, e quando complessivamente tutti i 47 paesi membri del Consiglio d'Europa sono stati condannati a pagare 135. Qui significa che l'Italia da sola è stata condannata a pagare più della metà di tutti i paesi messi insieme del Consiglio d'Europa. 71 milioni nel 2013, che si sono dimezzati nel 2014. La somma è significativamente ridotta. poco meno di 30 milioni, e invece quello che balza agli occhi del rapporto è la condanna della Federazione Russa addirittura a 1,8 miliardi. Rispetto alla Russia sicuramente meglio, ma i nostri nodi da sciogliere restano sempre gli stessi. In Italia vi sono una serie di problemi, diciamo, legati a violazioni sistemiche, a violazioni ripetitive, a casi che portano una pluralità di ricorsi all'attenzione della Corte. E quindi questo in chiave politica cosa significa? Significa che vi sono alcuni filoni di violazioni sulle quali il nostro Paese dovrebbe intervenire in maniera importante per ridurre in modo significativo le condanne della Corte europea. Per esempio sulla questione della lentezza della giustizia. Esatto, uno è questo, un altro è la questione dell'indennizzo e dei risarcimenti a coloro che sono stati danneggiati in seguito alla trasfusione di sangue infetto, un altro appunto è quello delle carceri, altri ancora sono in materia di espropriazioni. Vi sono alcuni filoni che sono collegati a dei deficit sistemici del nostro Paese e su questi bisognerebbe incidere. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Occupiamoci della nuova scelta difficile e controversa dell'attrice americana di 39 anni Angelina Jolie, che si è fatta rimuovere le ovaie e le tube per prevenire la possibile formazione di un tumore, così come aveva fatto per il seno. Si era tolta entrambi i seni nel 2013 perché secondo un test genetico aveva un'altissima probabilità di contrarre il cancro. Ne parliamo con Armando Santoro, direttore dell'Humanitas Cancer Center. Buonasera professore. Buonasera. Come giudica questa scelta? Anche allora, no, quando si levò il seno, si disse si consiglia, non si consiglia a chi ha molte ereditarietà in famiglia, lei per esempio, la zia, la madre che sono morte della stessa cosa. Una scelta molto razionale, totalmente condivisibile, una scelta che rappresenta d'altra parte quella che è l'indicazione della eutica convenzionale in queste donne e anche negli uomini con tumore della mammella, in cui si è una dimostrazione della presenza di un'alterazione, di una mutazione che implica un altissimo rischio di sviluppare un tumore della mammella e dell'ovaio nell'arco della propria vita. Quindi lei lo consiglia, ma qual è la percentuale oltre la quale da quel punto in poi diventa veramente consigliabile? Ma guardi, tutte le donne, gli uomini con tumore della mammella che hanno una familiarità e che hanno positivo questo test che si chiama BRCA1 e 2, hanno ribadito un rischio di sviluppare un tumore della mammella che si aggira intorno all'80% e per il tumore dell'ovaio intorno al 40%. È una quota piccola di donne con tumore della mammella, è tra il 5-7%, però dinanzi a una diagnosi di positività per questa mutazione mi pare che la scelta logica è quella di prevenire l'intervento di un tumore o della mammella o dell'ovaio, con un intervento che non nego che possa avere delle implicazioni di ordine psicologico, ma che da un punto di vista tecnico è abbastanza banale, fuori da rischi particolari. Ecco, l'importante è essere anche preparate e consapevoli dal punto di vista psicologico, però se lo consiglia un luminare come lei, Santoro, quindi questo è il suo pensiero, lo sappiano le donne, gli uomini appunto che sono ad alto rischio, naturalmente prima devono fare questo test, valutare effettivamente l'incidenza e poi rivolgersi come sempre a grandi specialisti. Grazie professor Santoro. Grazie, buona continuazione, buon lavoro. Direi che a questo punto stiamo per chiudere, lo sapete che poi torno giusto qualche istante per ricordarvi ancora una volta le notizie.